Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. We're handling it as best we can, Chancellor. Arrests are as high as they've been since the reclamation. I want more than arrests, I want results. Should I die tomorrow, will your heart feel sorrow from the fall? Go and go. L'ultima parte dell'intera settimana è la seconda parte del volume numero 5 di Eclettica. Ci sono 5 volumi, ciascuno diviso in due parti, o in diretta fra le 19 e le 20 dal lunedì al venerdì, o quando preferite voi, grazie al podcasting. La voce è quella di Giulio Caperdoni, giulio@radiorockfm.com. Una seconda parte del quinto volume che, perlomeno fino ad ora e anche per i prossimi minuti, sarà solo statunitense, in quanto abbiamo aperto con Port Bryan, I Woke Up Today, abbiamo proseguito con The Whit Sundays, It Must Be Me, e stiamo per proseguire con una formazione, un sestetto che viene dal Kansas, un sestetto in cui ci sono tre fratelli Hangauer e poi altri membri, Zach Hangauer, quello attorno al quale ruota tutto, anche l'etichetta per cui incidono, che penso prende ispirazione dai Pavement, nel nome la Range Life Records. Heart Attack è il brano che ci ascoltiamo. Loro sono i 4th of July. You say you love me, but I don't have any proof. And if you left me, it would break my heart in two. Split like a wishbone part for me, but most for you. And what would you wish for? There's so many things to lose. Uno, due, tre, prova. Registrazione ottima. Questo Olympus Pearl Corder l'ho acquistato a Heathrow, al duty free dell'aeroporto, mentre andavo... Dove? Non lo ricordo. Non importa. Dato che lo scopo di questo esercizio sta nel registrare al meglio i pensieri che mi passano per la testa in questo preciso momento, cioè, vediamo, alle 10:13 del mattino di domenica 23 febbraio? Ah sì, a San Diego. L'ho acquistato mentre mi recavo al congresso su... Isabel Hotchkiss, certo. Era San Diego. L'immaginazione e la mente, alla fine degli anni Ottanta. Questo era l'incipit di Pensieri, pensieri di David Lodge. In questi ultimi minuti che ci separano dalla conclusione di Eclettica, l'eclettica dell'intera settimana, voglio privilegiare la musica anziché le parole, perché ci sono alcune cose nuove che vi voglio assolutamente far ascoltare, al di là dei The Box che hanno appena chiuso con Arm in Arm, un estratto al loro nuovo album. Fra l'altro, alcune delle cose nuove che vi farò ascoltare, anzi tutte le cose nuove che vi farò ascoltare, provengono da Austin, Texas, e già ce ne sono altre di artisti che nel corso di tutta questa settimana provengono da quella città, dimostrazione di come è una delle più vive ultimamente dal punto di vista della creatività musicale, come i Weird Weeds che ci stiamo per ascoltare con Dream Songs, che sono arrivati al loro terzo album, che è uscito da pochissimi giorni, album il quale ha per titolo I Miss This. remember how the meaning of words began to change. How unfamiliar words like collateral and rendition became frightening. While things like Northfire and the Articles of Allegiance became powerful, I remember how different became dangerous. I still don't understand it. Why they hate us so much. Siamo ascoltati un'altra delle ultime interessanti produzioni da parte di Sub Pop, etichetta che si è un po' rivitalizzata da qualche tempo a questa parte, Your Reverie da parte di Kelly Stoltz, per lasciare ora invece lo spazio ad un'altra novità, come vi avevo già preannunciato, novità che arriva dalla città di Austin nel Texas, una formazione che fa di nome Sharewater e che uscirà fra un po' di tempo. Infatti si comincia già a parlare anche di album che usciranno nel prossimo mese di giugno, il 3 di giugno per la precisione, con la sua nuova prova che avrà per titolo Rook, e prova che già comunque stanno cominciando a portare dal vivo negli Stati Uniti e per la quale hanno messo a disposizione con largo anticipo una traccia che è quasi omonima rispetto al titolo dell'album. Si tratta di Rooks. Ma che cosa ci troveranno poi? Che cosa ci troveranno? Leslie Pearson, rappresentante capo della Travelwise Tours SRL, incaricato di ricevere gli ospiti all'aeroporto, osserva il flusso di passeggeri nella sala partenze del Terminal 4 dell'aeroporto di Heathrow con una espressione mista di pietà e disprezzo. Siamo nel bel mezzo del mattino, in piena stagione estiva, e ad aumentare la confusione del solito sovraffollamento contribuiva un sistema di vigilanza speciale, istituito in seguito ad un recente disastro aereo che si ritiene provocato da un sabotaggio. Questo era l'incipit di Notizie dal Paradiso di David Lodge. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 19, volume numero 5, indice, Malcolm Middleton, a rifare Madonna, Megaphone, The Dirt Bombs, a rifare gli Sparks, The Zen Circus, assieme a Brian Ritchie, Kim Deal e Kelly Deal, Gringo Star, These United States, Port O'Brien, The Whit Sundays, 4th of July, The Box, Weird Wits, Kelly Stoltz, Share Water, Blood on the Wall. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.